Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, per modo di dire, perché Milano si sta imbiancando ancora una volta e quindi ancora oggi vedremo, se conosco bene questa città visto che ci abito ormai da qualche anno, ancora un po' di blocco stradale. Insomma, uscire dall'ufficio sarà stasera tra le 5 e le 6 ancora problematico, ma speriamo di non vedere quantomeno quello che si è visto nel fine settimana scorso in gran parte del nostro paese. Allora, cominciamo con ordine. Proprio ieri, dai microfoni di 24 Mattino con il nostro Alessandro Milan, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Altero Matteoli, aveva ribadito: io più di quel che ho fatto non poteva fare, mi mancava solo prendere una pala e spalare la neve. E ieri queste dichiarazioni sono state più o meno confermate nel pomeriggio nell'incontro che il ministro ha avuto con tutte le società che, a vario titolo, sono ritenute in qualche modo, passatemi il termine, responsabili di non aver svolto un adeguato lavoro di monitoraggio dell'incredibile emergenza che si è verificata nello scorso fine settimana a causa del maltempo che ha imperversato in tutta Italia, neve e gelo. Ed effettivamente quello che si è visto nel nostro paese con la morsa che ha paralizzato mezza rete autostradale è ascrivibile a molte responsabilità, anche per qualcuno a quella di molti automobilisti che non sono stati sufficientemente attenti o comunque non hanno utilizzato un giudizio sufficiente nel partire qua quando era sconsigliato da più fronti. Ieri il ministro ha specificato: quando ho avuto contezza dell'emergenza ho parlato con i vertici di Autostrade per l'Italia, Ferrovie, ANAS, Protezione Civile, l'ho fatto decine di volte, ci ho messo la faccia per una cosa di cui francamente il ministero non è responsabile, e quello che ho evidenziato è stato proprio il mancato coordinamento fra tutti questi organismi. E rispetto a questa situazione del fine settimana, l'antitrust ha preannunciato l'apertura di un'istruttoria per verificare il comportamento delle società coinvolte nella gestione dell'emergenza. E appunto ieri vi ho ricordato prima, poi ne sentiremo anche qualche passaggio delle dichiarazioni che sono state rese, il ministro ha convocato un tavolo per verificare le responsabilità dei disagi e quindi anche questo versante dovrà essere ricostruito ed appurato, ed immediatamente, per la verità proprio nell'ambito, nelle giornate dell'emergenza, quindi tra venerdì sera, sabato e domenica, è partita subito la battaglia delle associazioni dei consumatori che hanno organizzato e hanno già preannunciato iniziative per richiedere il dovuto risarcimento a tutte le vittime, soprattutto alle malcapitate, della situazione del fine settimana. Risarcimenti che verranno chiesti a Ferrovie dello Stato e ad Autostrade. Peraltro, dal punto di vista delle Ferrovie dello Stato e di Autostrade, c'è già stata una dichiarazione di disponibilità rispetto a questo. Vedremo in che termini si potrà concretizzare, perché poi naturalmente i rimborsi dovranno essere fatti a fronte di una dimostrazione delle spese sostenute da parte degli automobilisti coinvolti nei disagi di sabato e domenica. Di tutto questo parleremo questa mattina. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Se non siete bloccati adesso da qualche altra parte, come per la verità sta capitando a molti italiani in qualche aeroporto europeo tra Londra, Bruxelles e Francoforte, allora raccontateci un po' se siete stati delle vittime della morsa del gelo e della paralisi autostradale, soprattutto nel centro Italia del fine settimana. Raccontateci un po' che cosa vi è successo. Noi di Radio 24 abbiamo fatto un tantam molto intenso e abbiamo già raccolto tantissime testimonianze fra sabato e domenica, ma se ne siete usciti e nel frattempo non avete potuto rilasciare dichiarazioni e testimonianze a nessun organo di informazione, fatelo stamattina a Salva Danaio per capire un po', insomma, qual è stata l'entità della vostra situazione. Chi abbiamo con noi questa mattina? Ci terrà compagnia nella primissima parte della trasmissione Emanuela Goggiamani, responsabile delle relazioni esterne dell'Autorità Garante del Mercato della Concorrenza. Dottoressa Goggiamani, buongiorno. Buongiorno a voi. Perché ci ha interessato molto questa iniziativa presa dall'antitrust aprire appunto questa istruttoria questa istruttoria sull'operato delle società che in qualche modo avrebbero dovuto garantire totale assistenza nel fine settimana appunto agli automobilisti al centro di questo caos, perché in molti si sono chiesti, è stata proprio l'antitrust a dover intervenire con un'istruttoria di questo tipo. Adesso ve lo spiegheremo, cercheremo di capire anche come si concretizzerà. E poi due associazioni dei consumatori. Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum, buongiorno. Buongiorno. Particolarmente arrabbiati con le Ferrovie dello Stato, i signori di Adiconsum, mentre abbiamo anche Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Presidente Trefiletti, buongiorno anche a lei. Buongiorno, io non sono arrabbiato con Trenitalia, sono arrabbiato con tutti. È furioso con tutti, la conosciamo bene. E ci spiegherà appunto che cosa intendete fare anche nell'incontro che si svolgerà probabilmente domani, quello della consulta dei consumatori con le società, appunto con la società Autostrade. Trefiletti, se non ho capito male, l'incontro di domani? Slittato a giovedì. Ah, ecco. A giovedì per impedimenti, per questioni solo di carattere, appunto, di impedimenti, non per volontà delle parti. Ma è con Autostrade questo incontro? Questo è con Autostrade, e poi naturalmente ci dovranno essere gli incontri. Se invece non ci saranno, e allora sì, porteranno avanti le azioni legali, quelle necessarie. Benissimo. Per avere il risarcimento. Allora, intanto nella nostra scheda ricostruiamo un po' quello che è accaduto tra sabato e domenica. In migliaia bloccati anche per 24 ore al gelo in autostrada, rimasti senza notizie in stazione, in attesa di un treno che non è mai partito, fermi in coda su una strada statale o provinciale per ore. Chi pagherà per i disagi subiti dai cittadini a causa di un'ondata di freddo e neve ampiamente annunciata dai meteo di tutta Italia? Per ora l'unica ammissione di colpa è arrivata da Autostrade per l'Italia, che ha assicurato alle associazioni dei consumatori che pagherà. Ma quanto? E in che modo? L'unica cosa certa è che per ottenere il risarcimento bisogna conservare il ticket, che dimostra l'ora di ingresso e quella d'uscita dal tratto autostradale coinvolto nei disagi. È chiaro che in pochi avranno pensato a farsi consegnare dal casellante una ricevuta di pagamento. Per questo le associazioni dei consumatori hanno chiesto che Autostrade accetti una semplice autocertificazione da parte dell'automobilista. Ma i disagi non hanno coinvolto solamente il popolo delle quattro ruote. Passeggeri di treni e aerei hanno subito infatti ritardi nelle partenze, se non addirittura cancellazioni. In particolare in tutta Europa il traffico aereo è andato in tilt, costringendo migliaia di passeggeri a passare la notte nelle sale d'attesa degli aeroporti. Più informazioni ai cittadini sull'arrivo del maltempo, maggiore coordinamento fra i gestori di strade, autostrade, ferrovie, protezione civile, polizia stradale, rimodulazione dei piani di intervento per fronteggiare le emergenze climatiche. Questi provvedimenti scaturiti ieri nel vertice presieduto dal ministro delle infrastrutture Matteoli, a cui hanno partecipato, lo ribadisco ancora, i vertici della protezione civile, della polizia stradale, di ANAS, ferrovie, autostrade, dopo i disagi di cui abbiamo ampiamente raccontato. Sentiamo cosa ha detto al termine dell'incontro il ministro Matteoli al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Non ha funzionato perché all'inizio è stata sottovalutata l'entità dell'emergenza e sono stati fatti entrare mezzi sulle autostrade e dopo non è stato più possibile portare soccorso perché l'autostrada era intasata anche nelle corsie di emergenza. Una comunicazione molto più forte di quella che c'è stata. Rivedere i piani dell'emergenza con degli accorgimenti che mettono in condizione di avere i mezzi più vicini a disposizione, più vicini, e nello stesso tempo poi far sì che questa comunicazione, arrivando in tutte le case, consenta agli italiani di starsene, di decidere se entrare o non nelle autostrade. Infine, ritengo che questo sia fondamentale, un maggior coordinamento di quello che c'è stato fino ad ora. Il maggior coordinamento è indispensabile perché venerdì è capitato che concessionaria si muovesse per conto suo, la NAS altrettanto, la ferrovia altrettanto, senza un coordinamento, e questo ha determinato disagi. Mi sento di dire che quello che è capitato venerdì e sabato non si ripeterà. Se tutto quello che è stato deciso oggi verrà rispettato. Dottoressa Goggiamani, allora autorità garante del mercato e della concorrenza, ci spiega il tipo di istruttoria che l'authority sta mettendo in piedi, su quali aspetti vuole far luce e soprattutto per prendere eventualmente che tipo di provvedimenti? Allora, noi interverremo sulla base del codice del consumo che prevede che le aziende debbano dare ai consumatori, in questo caso agli utenti delle infrastrutture del trasporto, tutte le informazioni necessarie per scegliere. quello che diciamo sembra essere accaduto, perlomeno dalle testimonianze, l'istruttoria peraltro diciamo non è una una dichiarazione di colpevolezza, si fa l'istruttoria per capire come sono andate le cose, però quello che sembrerebbe è che i viaggiatori sono stati diciamo fatti entrare in autostrada quando già l'autostrada era sostanzialmente bloccata, quindi non si è dato nessuna informazione sulla situazione come dire, di emergenza alla quale sarebbero potuti andare incontro, e in questo caso diciamo se così fosse, come diciamo dalle informazioni iniziali appare, ci sarebbe appunto un'omissione informativa grave da parte delle società. Aggiungo che non è la prima volta che ci muoviamo su fronti di questo genere. Abbiamo aperto lo scorso anno, ad agosto del 2009, forse purtroppo diciamo, in molti lo ricorderanno, infatti la però, questione diciamo, dell'ingorgo al passante di Mestre, no? Esatto, ecco. Un mazzingorgo pazzesco, in quel caso non faceva freddo ma faceva un caldo terribile, e anche là la nostra costruzione giuridica fu che non erano state date le informazioni necessarie per scegliere percorsi alternativi o semplicemente per tornare indietro e partire il giorno dopo. Abbiamo concluso l'istruttoria sanzionando le due società coinvolte che gestiscono quella parte di autostrada. Il TAR però ha annullato la sanzione, se non sbaglio, il voi TAR avete fatto. Ha annullato la sanzione. Noi adesso impugneremo al Consiglio di Stato. Purtroppo diciamo che queste interpretazioni così formalistiche del codice del consumo, io ovviamente non sono brava come i magistrati del TAR, però insomma io poi sono una cittadina, guardo gli effetti, e questo genere di impostazione fa sì che i cittadini alla fine non abbiano in qualche modo tutela, perché noi quello che sostenevamo in quel provvedimento è che l'eccezionalità dell'esodo non poteva essere addotta come giustificazione della mancanza di setta di informazioni necessarie. Quello che è successo 3-4 giorni fa mi sembra che confermi che forse il problema è generale, e probabilmente abbiamo visto giusto noi. Lì, insomma, la questione è che le società che gestiscono servizi di questo genere devono attrezzarsi con informazioni tempestive, puntuali, complete, per dare al consumatore la possibilità di scegliere. Sono state date tra l'altro tante responsabilità, anche questa per esempio è una che è stata attribuita da Ferrovie dello Stato, che fa un po' di fatica a dover ammettere di dover risarcire le persone che hanno subito dei ritardi di treni, alla regione Toscana che non ha esattamente quantificato quanti centimetri di neve sarebbero arrivati, 5 previsti, invece ne sono arrivati 28-30, e questo con complicità ovviamente del gelo ha provocato il disastro che sappiamo. Volevo solo specificare agli ascoltatori perché l'antitrust agisce secondo le regole del codice del consumo, perché questo prevede una multa per le società che non forniscono il giusto servizio per il quale ricevono un corrispettivo economico, quindi non è una questione di informazione sulla quale volete far luce, è quella, ma perché queste società comunque svolgono il loro servizio essendo pagate, remunerate, dottoressa Goggiamani? Assolutamente, ecco. Sì, tant'è che probabilmente invece non potremo far nulla nei confronti di ANAS, perché nelle strade gestite, esatto, dall'ANAS non c'è pedaggio. E infatti l'ANAS dice noi non risarciremo nessuno, esatto, proprio per questo motivo, perché non ricevendo nessun tipo di corrispettivo economico dagli utenti del nostro servizio è chiaro che noi non possiamo risarcire niente. Grazie per essere stata con noi, tra l'altro noi avevamo anche chiesto alla dottoressa Goggiamani appunto di avere il presidente Catricalà, che so che ha influenzato, gli faccio tanti auguri, e insomma adesso queste festività di Natale se le passa anche con questa bella rogna. Grazie molte, noi ci fermiamo perché abbiamo subito la prima pausa, poi vado subito alle associazioni dei consumatori, alle dichiarazioni di disponibilità rese ieri dal presidente di Autostrade per l'Italia e di dell'amministratore delegato di Mauro Moretti, poi già qualche ascoltatore in linea tra pochissimo. Salva Danaio. Dedicata agli intrappolati della morsa del gelo, del freddo e delle autostrade del fine settimana, insomma ovviamente come sapete si è aperta la caccia alle responsabilità, è chiaro che contro il maltempo quando arrivano delle sorprese di questo tipo si possa fare ben poco, per certi aspetti l'entità del maltempo del fine settimana è stato sicuramente sottovalutata, e però è chiaro, poi lo stanno sollecitando molti ascoltatori ascoltatori, ce lo stanno dicendo in molti ascoltatori, quando non c'è bisogno che non si vada in giro, però insomma c'è gente che lavora, era un venerdì, l'emergenza è cominciata venerdì pomeriggio, e tanti automobilisti che dovevano tornare o raggiungere le proprie famiglie, piuttosto che gli autotrasportatori, perché anche in questo caso in molti di loro sono stati addirittura ritenuti responsabili di aver provocato un ulteriore blocco di una circolazione che già andava in difficoltà. E in sostanza comunque qualcuno dovrà rispondere di questa emergenza gestita male, e il ministro Matteoli ha reso appunto le sue dichiarazioni, come avete sentito ieri. Probabilmente si dovrà lavorare molto sulle informazioni preventive che devono essere appunto ben distribuite, ben date, prima che si scatenino dei fine settimana appunto di traffico presumibilmente molto intenso. Andiamo ad un primo ascoltatore, poi comincio a coinvolgere le associazioni dei consumatori. Salvatore dalla provincia di Caserta, buongiorno. Salve, mi sente? Salvatore, la sento bene, può abbassare la radio gentilmente? Sì, certo. Grazie. Se la abbasso. Mi sente? La sento benissimo, ci dica tutto. Okay. Niente, chiamavo in merito, siccome il mio collega trasportatore, autotrasportatore, sì, è rimasto bloccato sulla Firenze, solo che all'uscita del casello non hanno fatto pagare il biglietto, quindi non so come può dimostrare questo. Infatti, no, tra l'altro ammettendo anche, perché molto spesso gli autotrasportatori che si fanno rimborsare certi viaggi di lavoro si fanno rilasciare la ricevuta al tempo, a prescindere dal fatto che non è stato fatto pagare il biglietto in certe tratte appunto nel fine settimana, ma magari molti automobilisti, non prevedendo la possibilità di un indennizzo, di un risarcimento, magari hanno pagato regolarmente come si fa e la ricevuta non hanno presa. Salvatore, grazie per aver sollevato questo aspetto. Okay, allora... la ringrazio, buona giornata. Grazie Salvatore. Allora, credo che non abbiamo ancora recuperato tre filetti, vado a Pietro Giordano di Adiconsum, che poi ci spiegherà le ragioni per cui soprattutto Adiconsum è molto arrabbiata con Ferrovie dello Stato, ma ha sentito cosa ha raccontato l'ascoltatore. Effettivamente per molti autotrasportatori vittime del gelo del fine settimana si potrà creare appunto la difficoltà di dimostrare di aver percorso un certo tratto autostradale, quindi come potrà fare appunto a richiedere un indennizzo, qualora poi credo che con Autostrade si possa anche arrivare ad un accordo di questo genere. Giordano. Sì. Si arriverà a un accordo. Il problema sono queste furbate, nel senso che chiaramente aspettandosi indennità da questo punto di vista, anche perché le associazioni dei consumatori avevano preannunciato una linea del genere, si sono fatte delle furbate da parte di Autostrade. Noi come Adiconsum siamo convinti che non si risolve così il problema, difatti abbiamo fatto una proposta. Se a carico delle autostrade al Ministero dei Trasporti si versasse 10 centesimi per ogni tratta, creando un fondo mutualistico che intervenga in questi fatti, quando ci sono questi fatti che sono tanto scandalosi, perché il Presidente della Regione aveva preannunciato e allertato della Regione Toscana, ad esempio, aveva preannunciato e allertato le autorità competenti, ma torno a ripetere, se si facesse, immagini quante tratte vengono fatte all'anno, se si facesse un fondo con 5-10 centesimi, si realizzerebbe un fondo di solidarietà che interviene proprio in questi casi. Che poi non vorrei che funzionasse come quello istituito per i disagi legati al mondo del turismo, che ancora stenta a decollare. E difatti io parlo di un fondo controllato dal Ministero, perché sono soldi, ma che sia gestito dalle parti, cioè dall'Associazione dei Consumatori e delle associazioni dei trasportatori e degli automobilisti, per poter gestire queste partite sul modello del fondo interprofessionale di formazione continua, per cui il Ministero controlla la gestione ma si ha la libertà di poter accedere. Ecco, però Giordano, non, la pregherei un attimino di stare anche fermo con la cornetta alla bocca, perché forse si sposta e la sentiamo un po' in maniera non ottimale, però nel frattempo, intanto che ovviamente si può cominciare a discutere della creazione di questo fondo mutualistico per la gestione delle emergenze come quella che si è verificata nel fine settimana, adesso ci sarà da capire come risarcire chi già vittima lo è stata appunto tra sabato e domenica. Volevo sentire tre filetti se a questo incontro, che da domani è stato spostato a dopodomani con la società Autostrade, si discuterà anche appunto delle modalità di indennizzo agli autotrasportatori e a tutti i conducenti di auto appunto che sono rimasti bloccati da qualche parte del centro Italia, perché visto che prima l'abbiamo persa, tre filetti, le ripeto quello che ci ha chiesto Salvatore da Caserta. Un suo amico è rimasto bloccato, ma alla fine del tragitto autostradale che ha percorso non gli è stata fatta pagare ovviamente la, la tratta autostradale, almeno quell'azione di responsabilità autostrada in certi tratti l'ha avuta. Detto questo, per chi invece ha pagato, come potrà dimostrare, per chi non ha pagato, come il caso, scusi, di questo amico di Salvatore, come potrà dimostrare di aver percorso quel tragitto e quindi di aver diritto all'indennizzo? Lei ha toccato un punto molto delicato. Effettivamente, dato che la maggior parte degli automobilisti, o perché hanno a un certo punto aperto i varchi, o anche perché non chiedono, ed ora in avanti bisognerà dire ai cittadini che quando fanno acquisti anche di pedaggio, in questo caso, tengano sempre le ricevute perché appunto servono. Allora, detto ciò, noi chiederemo anche che ci sia una sorta di autocertificazione, naturalmente con tutte le cautele del caso e con anche tutte le modalità più precise possibili, in modo che tutti quelli che hanno subito un danno possano essere risarciti, altrimenti qui si rischia veramente che dei 6-7 mila, adesso naturalmente è una stima assolutamente che può essere rivista, magari sono solo 6 o 7 che hanno la ricevuta. Certo è che chi ha il telepass o altre cose ancora, è evidente che da questo punto di vista ha già una registrazione dei percorsi, mentre invece quelli che appunto pagano in moneta o pagano in un'altra maniera, insomma, probabilmente non hanno neanche le ricevute. Ecco perché non possiamo assolutamente non discutere anche di una sorta di autocertificazione. Questo è il primo punto. Secondo punto, è chiaro ed evidente che bisognerà ragionare attorno a una griglia di rimborsi, perché sa, anch'io mi posso alzare, io ero a casa mia a Milano venerdì, sabato e domenica, ma posso anch'io alzarmi e chiedere ad Autostrada: ho percorso questo tratto, perché non mi rimborsate? No, attenti, se c'è un'autocertificazione fatta in un certo modo si rischia anche la truffa, primo, e non vedo chi per avere un risarcimento faccia una cosa del genere, perché qui non è che si tratta di dare dei milioni di euro, allora uno rischia anche la truffa. Questo è il primo punto. Secondo punto, ci sono anche delle registrazioni attraverso la fotografia che si fa ai caselli, attraverso magari anche delle testimonianze, autocertificazioni con testimonianze. Insomma, io non escluderei, naturalmente do l'istruzione per l'uso, d'ora in avanti mi raccomando, trattenete le ricevute, però non escluderei appunto che ci siano anche delle soluzioni alternative. Lo ripeto, quello che hanno aperto i cancelli, che per un senso aggiustamente di senso di responsabilità per farli defluire più rapidamente possibile, non hanno giustamente pagato, ma insomma, però non c'hanno la ricevuta. Ecco perché noi dobbiamo essere assolutamente equi rispetto a una cosa di questa natura, e discuteremo appunto con Autostrade anche di ciò. Sentiamo la seconda intanto, questione, molto rapidamente, una griglia, nel senso che non si può, se Rete ha avuto 10 minuti di ritardo, no, è un conto, se Deborah Rosciani ha avuto invece 10 ore di ritardo è un altro conto, e quindi bisognerà trovare anche delle risposte, incasellare adeguate un po' tutti gli automobilisti in categorie a seconda ovviamente di macro percorsi, chiamiamoli così. Sentiamo intanto ieri appunto quello che al nostro Vincenzo Miglietta ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Ricordo che dal 2005 che non si manifestavano situazioni così pesanti, perché evidentemente il sistema funziona. Questa volta è stata una precipitazione particolarmente gravosa, ben al di là delle previsioni meteorologiche, in presenza di una quantità di traffico, soprattutto pesante, particolarmente intenso. Questo ha determinato al primo imprevisto un accumulo di code di chilometri e chilometri, che ha reso poi lo sblocco molto più complesso. L'informazione è stato uno dei punti centrali della discussione di oggi a porte chiuse e poi dell'intervento del Ministro. L'informazione è mancata un po' a tutti i livelli ed è la prima area sulla quale dovremo tutti lavorare insieme. Ai consumatori? Innanzitutto abbiamo una procedura di conciliazione, non voglio anticipare i risultati di questa procedura. Abbiamo detto che non si tratta di indennizzo, ma di un gesto di attenzione nei confronti di coloro che sono stati costretti a passare la notte, e ce ne dispiaciamo. Tutti quelli che avranno passato la notte in autostrada saranno ovviamente oggetto di un atto di attenzione da parte nostra. Innanzitutto abbiamo attivato la procedura di conciliazione, che dovrebbe dare una risposta in tempi molto più rapidi ed efficienti alle giuste preoccupazioni e disagi che hanno avuto gli utenti. Per quanto riguarda i risultati della class action, in ogni caso verificheremo, è uno strumento abbastanza nuovo che pochi conoscono, ovviamente il numero di persone coinvolto è sufficientemente limitato da non preoccuparci in ogni caso qualsiasi tipo di sviluppo. E insomma, la sensazione è che Autostrade per l'Italia non voglia imbarcarsi sicuramente nella class action né in un contenzioso estenuante senza fine con le associazioni dei consumatori. C'è questo atto di attenzione, come ha detto appunto Castellucci, che il gruppo prenderà per risarcire gli automobilisti. Allora, in molti ci stanno continuando a chiedere come faccio a chiedere l'indennizzo. Non è stato stabilito ancora niente. Dopo domani c'è l'incontro con le associazioni dei consumatori e saremo qua a darvi tutte le regole, le procedure appunto che ci verranno comunicate, anche noi, in modo tale appunto da tenervi al corrente in maniera costante rispetto all'evoluzione di questa vicenda. Abbiamo i suggerimenti perché vogliamo farci mancare oggi i suggerimenti per chi è in viaggio, proprio oggi in questa trasmissione e in questa giornata in cui sta ricominciando drammaticamente a nevicare ovunque. Tra poco. Salva Danaio. 5-6.000 automobili rimaste bloccate sulla A1, 19 caselli chiusi su 25 del tratto toscano della A1, 87 tir finiti di traverso sulla A1 e, tanto per non farci mancare niente, 5.000 persone in attesa di un treno alla stazione di Santa Maria Novella. Ecco quanto accaduto, in sintesi molto estrema, nel fine settimana in cui la morsa del gelo e del freddo ha stretto gli automobilisti appunto rimasti intrappolati sulle strade italiane, soprattutto del centro Italia, nel fine settimana. E adesso stiamo cercando già di capire come si sta muovendo il terreno degli indennizzi e le iniziative delle associazioni dei consumatori. Volevo ritornare a Pietro Giordano, segretario nazionale di Adiconsum, segretario generale di Adiconsum, perché appunto, come vi dicevo prima, questa associazione dei consumatori si è subito scagliata addosso a Ferrovie dello Stato, perché insomma il tema è, intanto basta un po' di maltempo per scatenare, ma non ci vuole solo il maltempo per scatenare tutta l'onda dei ritardi delle ferrovie di cui spesso siamo un po' tutti protagonisti e vittime. Però il tema è anche che, lo riporta anche il Sole 24 Ore questa mattina, Giordano, che c'è una clausola nella carta delle Ferrovie dello Stato secondo la quale non possono essere corrisposti indennizzi se come dire, i passeggeri appunto di un treno sono vittime di qualche ritardo riconducibile a delle condizioni meteorologiche. La conoscevate questa clausola? La conosciamo, ma non c'entra niente con la fattispecie, perché loro sono obbligati, in quanto il maltempo era prevedibile e previsto, e quindi la clausola viene annullata. Secondo, la carta dei servizi di Ferrovie dello Stato è un atto unilaterale non concordato con le associazioni dei consumatori che rappresentano proprio i passeggeri, ed è stata realizzata appunto per evitare questo tipo di risarcimenti. È una cosa ingiusta, noi infatti ci siamo scagliati, perché quei passeggeri che sono rimasti o sul treno o sono rimasti nelle stazioni per ore, oggi devono avere quantomeno il rimborso integrale del, non come dice Moretti, del biglietto, perché Moretti afferma di dare un rimborso parziale per ritardi oltre i 60 minuti, e devono avere anche un'indennità, perché il regolamento europeo prevede che dovevano essere assistiti in stazione, cosa che non è stata fatta da Ferrovie dello Stato. Quindi anche lì abbiamo dei regolamenti di conciliazione. Abbiamo chiesto l'attivazione del tavolo, entro oggi, domani dovrebbero darci una data. Risposta, una data, e sono più lenti. Delle autostrade. autostrade. Nonostante l'alta velocità, insomma. Nonostante l'alta velocità, e anche si deve dire che mentre nelle autostrade, come diceva l'amministratore delegato, l'ultimo fatto risale a 5 anni fa, l'ultimo fatto per Ferrovie risale all'altro anno, dove per una bufera di neve, anche lì, nonostante, ripeto, l'alta velocità, si sono registrati disservizi. Il giorno della vigilia di Natale, tra l'altro, sempre noi dobbiamo celebrare tristemente questi anniversari. Tristemente. Ecco. Giordano, le faccio sentire però le dichiarazioni di Moretti. Per quanto ci riguarda, non abbiamo avuto dei blocchi della circolazione treni. Tuttavia, siccome in alcuni casi ci sono stati dei ritardi notevoli, ben al di sopra dell'ora nel quale è previsto il rimborso al 50% della cosa. Stiamo valutando, e naturalmente adesso lo valuteremo con anche le organizzazioni delle associazioni dei consumatori, che per ritardi ampi si preveda anche il rimborso intero del viaggio che c'è stato. Colgo l'occasione però per dire che il problema che abbiamo avuto è stato su Santa Maria Novella, su Santa Maria Novella soprattutto e sulla linea tirrenica, due fenomeni diversi. Sulla linea tirrenica i treni non riuscivano ad avere captazione, quindi abbiamo dovuto lavorare giorno e notte con i treni diesel su un fenomeno che non c'era mai stato in quella zona. Su Santa Maria Novella eravamo già in emergenza della mattina con le previsioni che erano state date dalla Protezione Civile della Regione Toscana, cioè di debole nevicata, e abbiamo fatto un programma per quelle previsioni. Ci siamo trovati dentro invece delle nevicate eccezionali, per cui abbiamo dovuto riformulare in corsa il nostro piano, permettendo ai treni lunga percorrenza di scorrere lungo la cintura Vifredi-Campomarte e facendo delle navette, degli shuttles da Santa Maria Novella a Vifredi. Siccome abbiamo dovuto rifare in corsa questo programma, perché la previsione non era di nevicate eccezionali, non siamo riusciti a comunicare per tempo questa cosa ai nostri clienti, ai cittadini, che invece che riversarsi tutti a Santa Maria Novella si sarebbero potuti andare direttamente alle due stazioni di Vifredi e Campomarte con tranquillità, ma per poter far questo bisogna farlo con anticipo e quindi è tutto collegato al tipo di notizie che abbiamo avuto rispetto alla cosa. Vi convincono, Giordano, le dichiarazioni di Moretti? Intanto sono inesatte, perché la carta dei servizi prevede tra 60 e 129 minuti prevede soltanto il 25% del rimborso e non il 50%, oltre 120 minuti e oltre 119 minuti prevede il 50%. Questo è un escamotage che speriamo che non venga portato al tavolo, perché appunto il nodo sta in quello che diceva Moretti stesso. Siccome erano prevedibili, loro avevano l'obbligo di chiamare i singoli passeggeri e dare la notizia di non andare a Santa Maria Novella. Questo non è stato fatto e quindi noi chiediamo, come Amigonzo e come associazione di consumatori, chiediamo l'integrale rimborso del biglietto. Benissimo. Poi spiegheremo le modalità nei giorni successivi con cui questi rimborsi tra l'altro poi non faremo magari delle puntate sotto Natale, ma d'anno nuovo istruiremo i nostri ascoltatori. Mi devo fermare un attimo perché il tempo ci sta scorrendo di mano, ma volevo ricordare anche un altro versante di tutta questa emergenza italiana e europea. A prescindere da tutte le persone coinvolte nei disagi del fine settimana, non ci dimentichiamo che ci sono ancora molte persone, molti italiani in giro in qualche città europea, in qualche aeroporto, impossibilitati a rientrare in Italia. Succede per molti italiani bloccati da questa mattina, si sono sbloccati in molti a Londra, i voli in partenza dall'aeroporto di Bruxelles sono sospesi fino a domani a causa della penuria di liquido per il decongelamento dei velivoli. È stato riaperto stamattina l'aeroporto di Francoforte, ma io vi volevo far ascoltare la testimonianza di un mio amico che, mi viene da ridere, ho la fortuna di avere in questo momento tra l'altro in qualche zona francese, perché stamattina ha tentato di partire da Londra perché i voli, appunto, dicevo, lì si erano sbloccati, ma gliene è capitata un'altra. Enrico, buongiorno. Ciao Deborah, io telefono qui dal traghetto tra Dover e Calais. Devo dire che... Com'è possibile che da Londra sei finito là? È possibile che mi hanno cancellato da sabato, che devo partire tre volte il volo. L'ultima volta me l'hanno cancellato stamattina alle 4:30. E allora, siccome le ricoperture erano a dopo Natale, se volevo passare Natale a casa dovevo provare a partire così, via terra. No, tu tra l'altro tu dovevi partire da Londra domenica, giusto? Dovevo partire sabato. Sabato dovevo partire da Londra, poi dovevo partire di nuovo domenica, poi dovevo partire oggi. Stamattina alle 4:30 mi hanno comunicato che il volo di oggi per me era annullato per la terza volta. Quindi a questo punto con proposte di ricopertura dopo Natale. Ecco, arrivo previsto in Italia a questo punto, data, come dire, la deviazione francese? A questo punto non lo so, o stanotte o domani, dipende da cosa troverò in territorio francese. Ecco. E se gli aerei da Parigi che cercherò di prendere funzioneranno o meno. Benissimo. Certo è che a Londra è molto seria la situazione, perché anche oggi ho visto una coda di 1 chilometro di persone, 1 chilometro, che cercava di prendere l'Eurostar. Esatto, certo, hanno cercato i mezzi ovviamente alternativi. Enrico, grazie per la tua testimonianza. Vado un minuto a Rosario Trefiletti, perché a questo punto, Trefiletti, bisognerà aprire anche questa rubrica adesso, quella di chi è bloccato in qualche aeroporto e anche in questo caso magari dalle compagnie aeree non ha ricevuto l'adeguata informazione per poter prendere dei voli sostitutivi, alternativi. C'è anche tutto questo versante, credo, da monitorare nelle prossime ore. Certamente bisogna verificare se questo è causato da responsabilità del vettore oppure un evento effettivamente eccezionale, ma anche quando fosse l'evento assolutamente eccezionale, la ricopertura e l'assistenza sono due questioni che devono essere assolutamente tenuti di conto per il singolo utente. Poi, se ci saranno invece delle responsabilità, nel senso che le previsioni erano sbagliate, non si è adeguatamente pulita la pista, non si è informato adeguatamente il cittadino, che altro, in questo caso c'è anche da mettere in campo un'azione di risarcimento, oltre che, l'ho detto prima e lo ripeto adesso, di riprenotazione e di assistenza per i tempi sul volo successivo. Benissimo, noi adesso andiamo alla nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. È l'INPS che ci spiega ovviamente le parole della previdenza, lo sta facendo in questi giorni il presidente Antonio Mastrapasqua, che oggi ci illustra il concetto, il tema del libretto della pensione. Se la domanda di pensione viene accettata, l'INPS invia al domicilio del soggetto richiedente il libretto di pensione. Attraverso l'esibizione di questo documento cartaceo nel luogo scelto per la riscossione, il pensionato può ricevere il pagamento della pensione. Il vecchio libretto di pensione conteneva sia i dati personali del pensionato, sia una fotografia autenticata che insieme valevano come documento di identificazione. I neopensionati invece hanno un libretto che riporta solo i dati personali, senza foto. Così al momento della riscossione della pensione, essi devono presentare assieme al libretto un documento di riconoscimento. Oltre al libretto, l'INPS invia al pensionato un prospetto con le caratteristiche e l'ammontare del trattamento pensionistico. Questa seconda parte, il cosiddetto modello Obis M, è aggiornata dall'INPS all'inizio di ogni anno e consegnata al pensionato tramite l'ufficio che effettua il pagamento, oppure spedita al suo domicilio. E insomma, noi adesso aspettiamo l'evolversi della situazione, vediamo come si concluderanno i tavoli e le riunioni, appunto, che le associazioni dei consumatori avranno con la società Autostrade e con Ferrovie dello Stato per stabilire le modalità con cui le vittime del gelo del fine settimana scorso, appunto, dovranno essere risarcite. Mi riferisco ad autotrasportatori, conducenti di automobili, passeggeri di treni. Quindi aspettiamo le novità. Intanto ringrazio Pietro Giordano di Adiconsum, Rosario Trefiletti di Federconsumatori, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Paolo Corleoni in assistenza tecnica. Deborah Rosciani vi dà l'appuntamento con Salvadanaio a domani. Buona giornata a tutti.